Papa, oggi Spillo, il 28 novembre, no? Oggi Spillo compie 56 anni. Cosa è il 28 novembre, no? Spillo, Spillo sì, chi? Spillo. Ma quello della canzone, Chico Spillo. Ma quale canzone? Spillo Altobelli! Chi? Niente, niente. Credo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. Contenti, eh? L'asilo in queste settimane, Drago, è cambiato, altro che contenti. È cambiato in bene, in meglio, spero, no? C'è stato un cambio di regime, insomma. E gli effetti si sentono anche qua all'asilo. Anzi, nella nuova compagine governativa italiana sembra che prevalgano le persone sarie e non più i bambini. Sì, sono tutte persone molto sarie. L'ex bambino premier ha però voluto piagnucolare un po' con i giornalisti, proprio come un bambino. E ha detto innanzitutto che lui era rimasto molto deluso dal Presidente della Repubblica perché Napolitano correggeva tutti i disegni di legge con la matita rossa, proprio come una maestrina con l'alunno negligente. Quando succedono queste cose, di solito intervengono i genitori dell'alunno e protestano contro la maestra. Beh, sì, lei non capisce il nostro figlio, lo tratta male, lui arriva a casa, piange, guardi che la denuncio. No, come guardi che la denuncio? Soprattutto a Torino fanno che la denuncio. Ti denuncio, però in questo caso i genitori dell'alunno negligente non possono intervenire per ovvie questioni di sopraggiunta morte. Sì, sopraggiunta da un po'. E quindi il povero ex bambino, nonché ex premier, deve farsi le sue ragioni da solo. Ma lui non è il tipo da tirarsi indietro, anche da solo si fa le sue ragioni. Però bisogna avere una bella fantasia per vedere nell'86enne napolitano una maestrina della scuola, sì, in effetti. E nel 75enne ex premier uno scolaretto negligente. Beh, quello però, dai. Sembrano due pensionati del ricovero che si stanno sulle palle piuttosto. E beh, sono bambini. Torture e storture della Seconda Repubblica, però adesso con la Terza Repubblica tutto cambia. Mai più bambini in Parlamento, ad esempio, mai più bambini al governo, mai più bambini nei posti chiave. E quindi tutto in mano ai vecchi. Tanto prima o poi tutti lo diventiamo vecchi, no? Tu lo sei già. Posso diventarlo molto di più, spero. Più vecchio di così non sei mai stato ed ora ecco che sei ancor più vecchio, che sei ancor più vecchio. Più vecchio di così non sei mai stato ed ora ecco più vecchio di così. È morto. Pieno asilo. Allegria, allegria. Sì, è Natale. Vai avanti, ti faccio sotto. Quasi Natale, no? È il 15 dicembre. Sì. E non ci sono le renne. Vabbè, comunque, 15 dicembre, ragazzi, si sta avvicinando alla Sala Collina, qui nella sede di Radio 24, in via Monteroso 91 a Milano. Ci sarà Babbo Natale esiste. Questo è il titolo. Diciamo Babbo Natale esiste. Babbo Natale esiste. Beh, non esiste, però è solo il titolo dello show natalizio di Chiedo Asilo che comprenderà. Ecco qua. Prenderà K, Drago, Fabio Coriu Calabrò, il bambino Alberto. Anche. E chi altri? Non lo so. Comunque va bene. Allora, per venire però a questa recita, dovete prenotarvi come l'altra volta a marzo. Sì. Con il sistema delle email chiedoasilo@radio24.it, mettete come oggetto recita di Natale. Sì, vabbè, ma e scrivete in quanti siete. Sì. Possono venire anche i bambini stavolta, state tranquilli, abbiamo fatto tutto quello che si deve fare. I bambini sono a cantare. Tutti qua. Devi finire di dire, no? No, basta. Ah, no, poi altre cose importanti per la recita. Il regalo per il bambino Alberto. Ah, sì, lui sta facendo delle liste infinite sulla sua pagina Facebook, le abbiamo messe anche sulla nostra pagina Facebook. Quindi se volete vedere le richieste del bambino Alberto, che sono un po' esose, e volete fare un regalino, prego, non arrivate a mani vuote perché non si fa mai bella figura. Ma anche il carbone va bene. Anche il carbone dolce, e anche quello proprio. No, il carbone. Questo sta diventando anche prezioso perché il petrolio, eccetera. Vabbè, poi bambino Alberto reciterà anche le poesie, le filastrofe che voi dovete scrivere, che però finora non ne sono ancora arrivate. Come mai? Perché sono difficili. È difficile, insomma, comporre una. Proviamo a farne una. Dai, esatto. Allora. È Natale. Che bello. Che bello. È Natale. Che bello. E Babbo Natale? E Babbo Natale non è ancora arrivato. È molto bello. Si vede che il treno in ritardo è partito. Ma che il treno? Babbo Natale c'ha le renne. E ora, bambini, ricreazione! Barbabietole, vongole, ordina il pranzo, salame piccante. Bambino Alberto, cos'è che fai col telefonino, il barbabietole? Sto facendo una pizza. una pizza con la mia nuova app. Adesso c'ho un'app, eh. Ma scusa, ma non hai mai avuto il telefonino moderno? Hai sempre avuto quel 14? Adesso cos'hai? Allora, a parte che intanto c'ho l'app. Vabbè, ma poi adesso l'iPad ce l'ho momentaneamente. Sì, ma da quando è che ti è venuta la mania dell'app? Queste cose che i tuoi genitori hanno sempre combattuto. È stata una mia amichetta dell'asilo. Che mi ha fatto conoscere un mondo sconosciuto fino a ieri. È stata un'esperienza esaltante. No, ma aspetta un attimo, sei un po' giovane per ste cose. Ma cosa scoprire capito? Il mondo fantastico. Sempre sta malizia. No, che vabbè. Malizia? A parte che sei tu che sei malizioso, infatti. Se vedi la malizia, quindi. Era una bambina. Mi ha fatto scoprire il mondo delle app, no? Le app, vabbè. Sì, in particolare le app per cucinare. Ma per cucinare cosa? Ma scusa, prima di tutto con le app non si cucina un bel niente, bambino, cioè, Alberto. Tutto sono fotografie. Tu non dovresti neanche avere uno smartphone, ma un telefonino di prima generazione. Ma come? Sono tutte robe, immagini, non succede niente. Non è che mangi quello poi. Quello che sia la roba virtuale è tutto da vedere. Come tutto da vedere? Come questo qua. Questo iPhone qui e me l'ha prestato la mia amica, no? Nella tasca del cappottino. Sì, vabbè. Lasciato lì e me lo ritorno. L'ha prestato così, vabbè. Sì, sì, esatto. Allora, le app. Adesso già. E lasciatemi fare sta pizza. Vai, cioè, allora fai sta pizza, la pizza. Allora, c'ho una lista di ingredienti qui, sono centinaia e centinaia. Si può fare di tutto. Sì. Allora, volete sta pizza o no? Vi faccio la pizza Gildo, la mia specialità. Ma no, così mi inserci. Cos'è, no? La pizza che non esiste. Ma scusa, ma è possibile? Ma gioca sempre o è con noi o gioca da solo o parla con forza, Gildo, un bambino di oggi, un bambino di oggi, sono malati, c'hanno dei problemi. Vabbè, ma perché non è un caso se io mi rivolgo agli adulti, no? Perché le mie pizze non piacciono ai bambini, sono pizze speciali, sono sapori forti, no? Allora, volete sta pizza Gildo? Ma allora facci sta pizza, d'altronde siamo pagati anche per questo, per parlare con lui. Allora, prima di tutto ci vuoi la pasta, no? Per fare la base. Sì. Quindi facciamo 5 centimetri di strato di pasta a piacere. In centimetri? A piacere. Vabbè, 5 centimetri di altezza. Sì, sì. Poi mozzarella di bufala, eh? Sì, sì. Facciamo triplo strato. Vabbè, sì. Beh, è buona la bufala. La bufala! Triplo strato. È mega finita, eh? E poi lo speck. Sì, sì. Due etti di speck, che fai come una specie di tappeto. Sì. Su cui vai a rovesciare i peoci. Peoci, uova di quaglia. Ma no, ma dai. Acciughe, sì. Pate d'olive, zabaione, salsa di soia. Vabbè, è una porcheria, fa vomitare. Sì. Lo zabaione, poi cosa c'è? Ma non è finita, aspetta ancora, non è finita, no? Poi tutto si ritrova. Ma non sei capace, non è che hai a disposizione 100 ingredienti. Infatti, devi usarli tutti. Devi usarli il secco. Basta usarne anche due. Dai. La semplicità prima di tutto. Ma non l'avete neanche assaggiata. Parlate proprio perché siete prevenuti. E l'uovo, scusa? Vabbè, l'uovo poi alla fine. Alla Bismarck lo metti sopra. Ma quello è. Ci sono già le uova di quaglia. L'uovo lo fai come decorazione. Vabbè. Comunque non l'assaggeremo mai, bambino Alberto, perché è sul telefonino. Non si mangia, è finta, è virtuale. E questo allora è tutto da vedere. Sì. Comunque, intanto, già che parlate male della mia pizza, significa che non capite niente di cucina. Ci sono dei miei amici su Facebook, amici veri, appassionati di cucina, intenditori. Amici di Facebook. E loro, amici di Facebook, amici quindi, per la pelle. E loro sì che capiranno il gusto con cui ho assemblato sta pizza. Questo loro. È un capolavoro, eh. Vabbè. Capolavoro. Alla fine, voi dovete sapere, la vostra opinione, non me ne può fregare di niente. Ma quindi cosa viene a dirci? Allora. Vogliamo la pizza, vogliamo qui, vogliamo là. Dai, tu se ti metti lì, fai piuttosto la pizza. Piuttosto dovresti convincere la gente a venire alla recita di Natale, le pizze virtuali. Dai, allora fai, insomma. Già la recita. Già la recita. Era fuori di fare pizza, me ne stavo dimenticando. Qui c'è K che poverino, cosa? Si è preso anche un po' di influenza. Allora, che cosa devono sapere i nostri ascoltatori per venire alla recita? Dai. Lascia stare allora, le pizze. Il 15 dicembre, che è un giovedì, alle 9 di sera, sono tutti invitati a venire a vedere il bambino Alberto nella recita di Natale 2011. Intitolata Babbo Natale esiste. Sì, guarda che non c'è solo il bambino Alberto, sì, preciso. No, ci siamo anche noi due, K, Drago. Eccoci. Poi c'è Fabio Calabro. Anzi, soprattutto K, Drago e Calabro. Ogni tanto anche il bambino Alberto che dirà qualcosa. Ma come ogni tanto? Sì, ogni ma poi alla fine. No. Ma voi sfruttate la mia popolarità? Sì. Per farvi belli? Sì. Per esibire cose che sennò nessuno vuole né sentire. Dai, su, vieni ai dati. Allora, come si fa per partecipare? È molto semplice. Basta scrivere a Chiedo Asilo. Chiocciola radio24.it. Bravo. Oggetto recita di Natale. Ecco. Ribadisco. Chiedo asilo at radio24.it. Oggetto recita di Natale del bambino Alberto. Non ha capito nessuno. Short people got no reason. Short people got no reason. Short people got no reason to live. Chiedo Asilo è radio24.it. Potete prenotarvi per la festa recita di Natale intitolata Babbo Natale esiste. Oppure scrivere tutto quello che vi passa per la mente sul programma che avete appena finito di ascoltare.